Dimmi. Sa se arrivo adesso con quello là, col 500. Aspetta, che poi facciamo la prova. 100 su 14, e te lo dico subito. Sì, è basso, eh? È notato? Segnale 5. Bassa, ma già arrivi. Quasi con la verticale. Un microfono normale, per forza è così. Se metti amplificato esci meglio. Lo smetti, messo a posto là. Già, l'ho messo. Beh, funziona tutto bene, sì. Sto provando, vedo che va bene. Allora se va bene è tutto a posto, meglio così, visto, te l'ho detto. 5, invece con l'altro era 7. Eia. L'alimentatore che non ce la fa, perché è un coso, un 2 ampere questo, l'alimentatore. Ehi, vabbè. Gli metti l'altro grande. Cosa vuoi dire, che glielo colleghi? Si può collegare tre apparecchi, già lo sai. Si fa quel rumore della ventola, sento l'RF dentro, capito? Esagerato. A casa non lo sentì fino alle baracche dove c'avevo io, è strano. Va a collegare con quell'alimentatore, a ver se arriva più forte. Prova un po' a collegarlo in quell'alimentatore grande. Dovrebbe pompare di più. Un conto avere 2 ampere, l'altro averne... cioè, 13 volt. Aumentano i watt. Per collegarlo? C'è i 3 vitti, non ci vuole molto non collegarlo. A meno che non ti manca lo spinotto di dietro. Scali i vitti direttamente, dai. Direttamente le vitti lo colleghi e poi li metti con lo spinotto a 3 e sei a posto. Prendilo, colleghi. Un po'. Prova un po'. Sempre uguale. Segnale 5. Però io sei più basso adesso. Non ti sei allontanato tu dal microfono. Microfono e non serve. Mettiti un microfono 1F10, quello che è. Dai, se ne trovano quelli in giro. Beh, non mi senti con il 4000? Strano, aspetta che ti chiamo. Ti sento basso? Aspetta che mi hai parlato 2 minuti. Se arrivi basso, non so. E beh, mi ascolti adesso. Un attimo. Franco. Dove va? Dove va? Che può essere? Pagata. Ufo, non mi tasci! Ufo, non mi tasci! Ufo! Non mi tasci, onore! Tu non mi tasci! Davvero! Non c'è nessuno qua, non c'è nessuno! Cosa c'è, Lu? Cosa c'è, Eia? Ci sei? Ti sento mi da battito cardiaco. Davvero? Ehi! Cosa c'è? Cosa c'è? Solo ti hanno lasciato, no? Non c'è mai nessuno qua, ma sai cos'è? Mi sento smontato, ho sempre quel problema dell'alternata. E ce lo salgo a casa, tanto qua non c'è niente. Brughi, sì, già, invece grazie. Non ho dato più, ho già detto, non venisci uno, cosa lo tengo a fare? Io vabbè, non è che posso essere attaccato a questo aggeggio, no? Tu, caspita, c'è un'altra cosa da fare certe volte, capito? E poi, non sono tutti che sono attaccati, capito? C'è quello che invece magari ascolta, c'è quello che chiacchiera, e c'è soltanto che quando attaccano non la finiscono più, puoi immaginare. Per cui quando c'è la necessità che c'è gente, si chiacchiera, quando no, si ascolta, oppure si fa un giro in paglietta e lo deve fare. E c'era un amico tuo che prima girava la testa, si lamentava che non entrava nessuno, e lui era sempre in frequenza, e avevano messo le macchinette, ti puoi immaginare. Poi, ho detto che penso, ma in realtà non ci mette mai uno. Vabbè, non è che... non divento né ricco né povero, guarda Giovanni, tranquillo. Ehi, quando c'è la possibilità di chiamare, boh, infatti, se no pazienza. E poi certe volte, prima magari ero più attaccato, cioè adesso magari è passata anche la Puglia, capito? Però ogni tanto, adesso, capito? Perché se abbandoniamo un nell'altro è finito lo scopo allora, capito? Però non siamo da soli. Sono parecchi ritirati. No, quando è possibile si chiacchiera, quando non pazienza. Tanto, non è che chiacchino, parliamo, stiamo male, no? E vuol dire magari o non si sente di chiacchierare, oppure sta facendo qualche cosa. E tante cose ci sono, capito lui? Pregatene. Pensa alla salute e tira avanti. Ah, signori. Mi l'ho detto a Luca, te lo compri. Non stavo vendendo, se puoi far ridi. E ridi, boh. No, io ci mancherebbe, no, ma io ho detto solo che non è, prima aveva sempre gli enti, io sta a fare due chiacchiere. Ah, sai, io se sono a casa è acceso, sia uno e l'altro, è sempre acceso, salvo che non mi senta male, allora no, non mi voglio accendere, sono coricato e basta, ma se non mi sento male, me ne alzo. La prima cosa che faccio, tu non ci crederai, io me ne alzo alle 9:30, 10 certe volte, la maggior parte. Appena mi alzo, accendo uno e l'altro. E sta fino alla una se sono a casa. Alla una che prima di mangiare spengo tutto. Quando a pranzo mi corico alle 4 o 4:30, lo riaccendo, se c'è chiacchiero, se non c'è nessuno pazienza, però lo lascio acceso, eh. È sempre acceso qua, quando sono a casa. Per cui oggi mi sono alzato anche un po' più tardi ed eccoci qua, ho sentito te e sono entrato. Però fregatene lui, quando è possibile si chiacchiera. A vedere cosa fa, faccio, pare non me ne sa. Se non entra nessuno che se ne frega lì, è tutto pagato, per cui non mi preoccupo, capito? Senza dubbio, va, ci mancherebbe. No, io non sento niente, è tutto spento, a casa è spento, questo era spento prima. Ah, perché oggi è entrato la Grazia? Stamattina. Oh, sono parecchi giorni che non lo sento. Chiaro, 2 giorni non accendevo, io non mi sentivo bene. Oh, boh, strano, eh. Vedo un po', ma ci sentiamo un po' tutti, capito? Per cui, quando è possibile, vabbè. Quando non è possibile, pazienza, capito? Preghiamoci. Guarda, sono a casa l'accendo, se c'è, entro e faccio la chiacchiera a tiro, quando non ho voglia, è così, va. Capito? È free però. Ho sentito, l'ho finito a vercela. Sì, sì, stamattina. Vedo un po'. Stavo a fare, ma non è sempre indaffarato. Prima pure è sempre indaffarato. Eppure entrava molto spesso, appena che era libero entrava. Mentre adesso anche lui si è assentato, è parecchio pure si è assentato. Nonostante che diceva sempre cosa a noi. Che lo entravamo, quindi là, e adesso ha fatto lui anche, ma è così, ci sono i momenti buoni, i momenti che non ne hai voglia, per cui non entra, e così via, preghiamoci, tanto pare, anche se non lo parliamo non ce l'ha pane, così che già stiamo bene come siamo, quando è possibile buono, quando non ho pazienza. Capito mi hai? Vabbè, stavo scherzando, non me lo vendo, ma c'è il bar. Non mi... lo so, vabbè, se c'è gente, vabbè, si... Non... ma sa quante volte accendo e ascolto, e non entro, mi capita molto spesso anche a me adesso, prima no, prima ero, guai se non l'accendevo. E adesso invece mi è passata anche la voglia anche a me. Ascolto molto, molto spesso. Magari ascolto e non entro. Certe volte entro con la mente, capito? Come ci sentiamo, capito lui? Più o meno. Io sono fatto così alla certa età, magari sei stanco. Ci sei troppo, vedi sono più di 52 anni io, quasi 53 anni ci sono io. Due divisi Giovanni, ha giudito 2 giorni ci sei. Per dire no, certo, una volta mi sono suffatto, ma forse perché sentivo delle persone magari non mandava, per cui tu già lo sai che io non ho bisticciato mai con nessuno, però quando la persona qua preghiamo vabbè, tutto dopo un periodo, vabbè, il mio il problema era perché disturbavo solo una persona e mi facevano i dispetti, Gio Maria. Mi tagliavano il capo, più volte me l'hanno tagliato. E cosa vuoi fare? Devo ubriare una gente a chi è di... Cioè io parlo al baracchino e loro mi sentono a me, che poi il problema non era mio. Infatti era venuto anche il controllo a casa. Sono venuti, hanno controllato, tutto a posto. Infatti hanno voluto sapere a chi disturbavo, glielo portati anche. E vabbè, non è che... Poi di nuovo ci ho riprovato e... mi sono più lamentati, vabbè, da quando sono entrati, da quando è entrato in digitale, l'analogico disturbavo, eh. Davvero? Digitale no, perlomeno non sono più lamentati. Davvero? Ok. Ehi, a disturbare, ehi, una volta anche a me è successo, disturbavo, allora, non entravo per non rompere, perché anche a me se mi avrebbero disturbato, capito, capito, così che... Anch'io quando disturbavo ce la posi e te la avanti, capito? Purtroppo è così. E anche adesso qualche volta, qualche volta capita. Per esempio, c'ho il Galaxy, entro anche sulla TV mia, si può immaginare, se accendo il Galaxy, entro sulla TV mia, con l'altro no. Ah va, lo so cosa male, è originale me, il Galaxy che ho io, nuovo nuovo, eppure disturbo. Allora, l'accendo magari in ricezione, però non ci parlo perché so che disturbo, capito? Io niente, non disturbo niente. Prima sì, anche a casa. La Rai, Rai 2, Rai 3, Rai 1 si vede di meno. Però disturbavo Rai 2 e Rai 3. Doppia strisce. Non andavo nei canali alti, mi. E poi niente, da quando ci sono questi televisori nuovi e poi in digitale, la verità non ho più disturbato. E vabbè, tanto poi ci sono dati rubare a chi a casa, sempre il sudato. Quando sono a casa magari lo accendo, però c'è qualcuno, lo saluto, così sto una mezz'oretta, non di più, e poi niente, lo spengo. Vabbè, magari se uno non c'ha tempo, vabbè, ma se c'ha tempo, come facevo io, se lavoravo tutto il giorno non accendo mai, io accendevo solo la mattina prima di uscire e la sera quando rientravo, quando lavoravo, capito? E poi sabato, la domenica, allora all'ora del giorno, non mi mancava mai, nemmeno in macchina, l'ho avuto sempre in macchina, anche sul camion l'ho avuto, per dirti no. Ma adesso, forse anche all'età che non c'è più voglia, capito? Ma non viene più voglia, per cui ogni tanto anch'io, ma sento, ascolto e basta, capito? Vabbè, no, macchina, se macchina è brutto, no, non saranno. E già, no. Comunque, l'amico Fritz, è proprio lui che parla, non c'è mai nessuno. Se non entri mai, cosa... Lui non entra mai, lui è sempre indaffarato. Vabbè, lui sta lavorando alla fine. Perché non ha un lavoro fisso, si fa i suoi lavoretti e fa così, beh, anche io a me se mi capitava i miei lavoretti me li faccio, non sto in radio, no. Però, sai, adesso ho avuto tempo, se non manco adesso sarei entrato, perché sto aspettando, come tu prima, Marina, che arrivi, così dopo usciamo. Grazie, vuole basta, capito, per cui, no, ho visto che ogni tanto già entrano. Ma ho visto che tu anche fa, se ti sposti anche se ne vai su 10, fai la chiacchierata anche su 10, è già un'altra cosa, ma io non mi muovo da qua, non mi muovo da 23, capito? Boh. Però se non c'è gente qua, se vuole andare là, va là, fa la chiacchieratina e ammazza il tempo, capito? Ah, io Gio Maria lo dico sempre, sono amico di tutti, poi se a me uno mi sta sulla scatola, allora manco 100. Io sono amico di tutti, rispetto, voglio rispetto, e poi del resto non è che me ne freghi. Io non è che, se faccio un esempio, se Gio Maria non si parla con Giovanni, un esempio, non è che non lo fa per due, oppure se non si parla con me non è che tu non parli a me. E io sono amico di tutti, come ho sempre detto, poi lo sanno loro, capito niente. Vabbè. Luca, ripeto, ha i suoi lavori da fare. Poi lui dice che mi chiama sempre. Mi chiama sempre quando ce l'ho spento. Però io non ho più sentito la verità. Prima c'era spesso, dai, la sera quando rientravamo dal lavoro, un'oretta si accendeva. Mi grazie non si che ce l'ha il tempo, Giomari. Lui sì, mi. Ehi, acciaro, sei d'accordo. Può stare anche tutta la sera, tutta la notte chiacchierando. Ehi, quello andava bene a fare cronista. Davvero. Gli piace molto, vabbè. Giusto che sia così, ognuno c'ha il suo fisico, il suo tipo di fare, e per cui va bene, quando c'è chiacchiera, quando non c'è, però se c'è qualcuno che li raccorda, sono bene, Graziano, perché io l'ho sentito varie sere che non la finiva più, una parrattina enorme, infatti certe volte mi dico, questo ha da bere a fare il cronista. E ti volevo dire da prima, che non prendo parlare con la pazienza. Vado, mi, da dove l'ho preso, lo tengo nel cuore, lo spengo, buonanotte al secchio. E vabbè, come c'è tempo già si può. Poi, in questi giorni stavano giramenti tutte le... Bah, questa gente è strana, ragazzi. Ho venduto una cosa, non adesso. Infatti io gli ho detto a questa persona di provarlo prima, poi mi dava i soldi. Perché i soldi io non premi. Adesso ora funzionava bene, ma la stanno in più devo ritornare i soldi indietro. Quindi sono bucati da luci. Purtroppo ci sono anche queste cose che succedono, vero? No, io ripeto, non ho dato, quando do qualche cosa gliela do, mi si vede, se no io dico mi c'ha questo difetto e basta. No, succede anche come tu hai fatto adesso, per esempio, tu hai venduto questa questione prima, con te funzionava bene, magari con questa persona non funziona, e anche queste cose succedono. Vuol dire c'è qualche cosa che non va, o non lo sa fare funzionare, e arrivare in guasto, e così vuol dire. C'è qualche cosa sempre che non va. L'unica cosa è non le dare basta, boh! C'ero dopo quasi un mese, vedi che non funziona, non gli hai fatto niente, io non lo so quello che gli hai fatto tu. Io ho trovato, non ho trovato che era di funzionava, c'è il problema, io non lo è, ma vabbè, la cosa mia, stavo dire non prende più niente da me. Sono molti anni fa. Tante cose, non risponde, basta, mi sembra di chi ci passa la fissa, che se ne frega. Ma già lo so, già conosco qualche anno, dai. Sono tanti due secondi che metto il pellet che sta finendo. Sì. Che avanti, bene, oggi è entrato appresso, bene o male. In campagna eri, confermi. In campagna, ma in più non ero solo che segnale non ce n'è, però la radio un pochettino passa, perché non ti capisco, ma chi? Oggi il cammino ti sento, Sì. Ma stavi uscendo, adesso lo stai uscendo, ma chi? Sto uscendo? Così è Giomorino, sto uscendo. Ciao, stai uscendo, ma chi? Ciao, cosa hai combinato? Niente. Sto guardando la televisione. Sto guardando un film. Adesso mi ascolti? Adesso sì, ho cambiato situazione. Strano ma vero. Anche prima ti sentivo io, Bacchi. Ti sentivi, Giulio, buonasera. Ciao, Bacchi. Sì che ti sentivo bene. Con quell'antennino là mi sentivi bene, questa adesso è l'antenna grande. Era un antennino piccolo. Aspetta che adesso lo rimetto e mi dai un controllo giù. Ehi, ok. Ma che stai parlando, Bacchi? Ciao Marì. Che è? Lo senti, a Bacchi non lo senti. Bacchi, sei uscendo a tratti. Oh, stavo uscendo bene, sei tu che stai uscendo a tratti. Boh. Non ti sento più, Ciao Marì, mi senti? Chi sei? Adesso ti sento, Bacchisio. Giulio sono, non Bacchisio. Bacchisio sta cambiando l'apparato. Prima che mi si attratti, non è Bacchisio. Ma a tratti stavi uscendo, Aspetta che mi sposto. Ma chi accade che sei andato per cambiare questa antenna? Devo uscire fuori, sono ritornato dentro, no? Ho capito. Sì, già ti sento bene. Ma hai messo l'altra, ne ho messo un'altra. Adesso questa c'ha 107. Va benissimo, io ti sento benissimo. Radio 5 a bomba, va benissimo. Anche tu sei a fondo scala, Vediamo Gian Maria se mi ascolta. Gian Maria, lo senti a Bacchisio? Avanti, giù. A Bacchisio non lo senti, ti sta chiamando Bacchisio. Avanti, giù, Bacchisio. Mi ascolti adesso Gian Maria. Adesso ti sento, ha cambiato antenna, dai. Ha cambiato antenna, ecco qua. Benissimo. Adesso va bene. Ma poc'anzi, anche Giulio. Oh, va bene che ero con Gommino, Ero con Gommino per quello, Bacchi, che ti senti. Però strano, senza Graziano. Sento attore con Gommino, però a te non ti sento. Strano proprio, Bacchi. A me lo dici, cara. Neanche Marino mi ascolta. Marino, a giorni mi dice non mi ascolta, a giorni mi ascolta, deve essere qualcuno che chiude la porta. Io lo sento benissimo, Giomari. Tu sei più vicino, lui. Tu sei più vicino, è chiaro che... Ma a me Bacchisio, no, con l'antennino, con Gommino, non riesco a sentirlo, capito? Però anche Graziano con l'antennino eppure lo sento. Ecco, evidentemente lui ha la posizione brutta e qualche ostacolo avanti per la zona mia non passa, capito? Luca. Ciao Bacchi, buonasera. Ciao Luca, buonasera, ben ascoltato. Da Gian Maria c'è la porta chiusa. Non vuole aprire questo cavolo di porta, Gian Maria. Parla da dietro la porta. Io Gian Maria apri la porta, che passo. Adesso già ti sento. E sento bene anche a Giulio. Poc'anzi a Giulio ti sentivo a tratti. O tu, Irbo? Avanti giù. Tu appunto ti stavo dicendo che eri tu che scrivi a tratti, dunque se uscivi a tratti sentivi anche a tratti e quello era il problema, perché avevi quell'antennino, magari come ti muovevi e allora arrivavi a tratti. Anche a Luca lo sento. Ciao Luca. Ciao Giulio, mi ascolti? Ciao Luca, fatti sentire. Ciao Giulio, mi senti? Sì che ti sento. E secondo come ti muovi, no, però mettiti in una posizione che mi senti bene e così posso sentire anch'io a te. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova, mi ascolti? Così ti ascolto la bomba. Dai, anch'io ti ascolto. Va bene, sai, queste frequenze sono un po' così, non è la frequenza come baracchino. Gai, su conto, qua c'è un ostacolo, non passi, avanti. Bacchi, riprendi. No, perché Gian Maria chiude la porta, capito Luca? Chiude la porta e non la vuole aprire. Se apri la porta passiamo tutti. Caspirina. E così, avanti Gian Maria. Oh Bacchi, sei basso, Sei basso, anche per me arrivi basso, ecco, non è... Luca arriva fortissimo, Giulia arriva fortissimo, però tu sei basso, ecco. Come segnale è buono, però la radio è bassa, no... Vedi, può essere anche quello, perché c'è quell'ostacolo avanti e non passa. La porta mia è sempre aperta. Poi la tua lo so se è aperta o chiusa è. La radio è, arrivate tutti a fondo scala se vi può interessare. A Carbonazzi siete tutti a fondo scala. Claudio, buonasera. Buonasera, ben ascoltato. A tutto a fondo scala. E la potenza che c'è. Uno quando è vecchio è anche più forte. E dipende anche dalla radio a volte. Magari una è meno sensibile dell'altra, io vi sto ricevendo con quella amatoriale, arrivate tutti a fondo scala. Gio Maria poc'anzi, che Giulio non lo sentiva, era Santiago Nove qua, col Gommino, adesso è fondo scala, siete tutti, arrivate benissimo tutti. Vi saluto e continuo a ascoltarvi. Avanti Gio Maria. Buonasera qua. Vedo un po', cazzo. Tu c'hai l'antenna fuori, per cui chiaro che poi c'ha l'apparecchio pure più adatto, che ascolti e trasmetti bene tu. per cui è anche troppo che arriviamo lì per le condizioni nostre, però Bacchisio è strano, eh. Il segnale è forte ma la radio è bassa. Giulio Fondoscala, Coso, Luca, la stessa cosa, insomma, della zona di Bacchisio, eppure Bacchisio è sempre basso. Sì, ma adesso Giammari mi mette un foglio di carta sotto i piedi e sono più alto, eh. Cosa mi dica? Per carità, avanti giù, riprendi tu da. Ok, ce ne andiamo tutti al mare, ci sediamo in barca, così campo libero ci sentiamo tutti bene. Ciao Cla. E da quel tempo senza sentiti. Ascolta, Bacchisio, volevo chiedere una piccola informazione sul pavimento, no? Ma mi ha detto De Martis che c'è un aggrappante adatto per mettere sulle piastrelle e dunque poi si può mettere sia il massetto oppure il livellante, vero? Sì, ma mi ha detto se lo metto sopra le piastrelle così non attacca, se invece gli do prima una passata di aggrappante, allora sì, ho capito. E se ogni tanto le tocco un mattone così, va bene lo stesso? E vabbè, lo faccio un mattone, uno ogni tanto così, no? No, certo non tutti, no, ma uno ogni tanto, e non va bene lo stesso. Ah, io ho capito, va bene, dai, allora mi consigli l'aggrappante. D'accordo, grazie. Avanti Cla. No, Giulio, vi ascolto volentieri, dai, ma no, non riprendo. Era giusto per dirvi che arrivate tutti magnificamente bene quassù. Ho tolto tutto, Giulio, ho smontato tutto. C'ho solo questa e la KF e basta. Smontato tutto. Lo sai che l'ho immaginato? Perché sono già 15 giorni che non ti sento. In 27. E infatti ho pensato, ma forse stai traslocando. Più o meno ci siamo, ma non stai traslocando ancora? No, sto ancora facendo lavori e ce n'è ancora parecchi. Però ho smontato già tutto, capito? Ho tolto tutto, no? Ho tolto tutto, poi per la gente che c'è è inutile stare lì poi all'ultimo momento. Adesso appena arriva il tempo buono smonterò anche tutte le direttive, tutte le cose. Sto iniziando a impacchettare e mettere da parte. Però ho tenuto questa VEU, la grande, il 910H e una radio solo per gli HF e basta. Per quello vi sto ascoltando qua. Capito? Ciao a tutti, dai, un abbraccio grande, continuate, vi ascolto volentieri. Riprendi Giulio. Oh, guarda, Clara, tu sei bisogno. Sì, non ti preoccupare. No, beh, traslocare da qua già viene il figlio di Vittorio Carenti, fa tutto lui. Non ha Giubiugana e sa battagliarmelo dai Beddu, no, o lui. Già l'ho fatto una volta da via Pascoli a qua e... Prima da qua a via Pascoli, poi da via Pascoli a qua e... Mi è venuto l'esaurimento. Girabiglia e luci, faccio fare a loro e via così. Comunque, grazie lo stesso. Se ho bisogno per le antenne, già ti chiamo, ok? No, forse non hai capito la battuta. Se hai bisogno, ho il cofano vuoto, dal radio, no? Mi sono che l'età in pavimento. Hai capito male. Sì, ma conviene. Ti viene l'esaurimento, Luca. Ti viene l'esaurimento. Pago e fanno tutto loro. Io mi occupo solo della parte della mia sala radio e delle antenne. Boh, il resto si arrangiani. No, però sono già a buon punto, dai. Ho già smontato tutto. Già smontato tutto. Vabbè, se ti serve qualcosa fai un fischio, già ce n'è il radio per terra. Ciao a tutti, divertitevi. Ciao. Ok, ciao Cla. Va bene. Capito, ma oh Luca, sentito hai? Dunque, qualche radio per te c'è, mi auguro, una marea ne ha, già lo credo. Va bene, dai. Adesso lui si trasferisce fra un po' e così si sistema dall'altra parte alla grande. Avanti Bacchi, ti sento bene, ti sento sempre bene. Fra me e te c'è un'autostrada, oh Bacchi. Fra me e te, Gio Maria. Cioè io per il latte dolce, c'è campo libero dappertutto, c'è un'autostrada, dunque non ci sono ostacoli, non c'è niente. Sento tutti benissimo. Qualche volta magari quando dall'interno con il gommino vi spostate da un punto all'altro, allora può capitare che c'è una piccola interruzione. Però sento tutti bene, capito Bacchisio? C'è anche Antonello, non lo senti a Bacchisio? Antonello, non lo senti a Bacchisio? visto, ma fra me e lui, ripeto, noi siamo tutti e due all'esterno, io praticamente nei confronti della zona lì, Latte Dolce, io sono favorevolissimo, perché cosa c'è? Vedo guardando attraverso la linea dritta, diciamo, la linea dritta non è altro che campagna e basta, ecco perché riesco a sentire e passare bene, tutto lì, oh, Antonetti. Beh certo, già lo credo. Vai Gio Maria. Ok, ciao Antone, buonasera. Bene, ho sentito a Bacchigio, sì? Benissimo. Esattamente. L'impedimento non c'è niente davanti, così che per te passa benissimo, capito? Perché a me arriva a basso, come radio, è un segnale forte, è la radio che bassa. Quello è il fatto, è bassa bassa. E devo aumentare, quando parla Giulio e Luca, io devo abbassare, invece quando parla Bacchigio devo aumentare. E adesso va più bene, adesso si sente più bene Bacchi, va. O ti allontani dal microfono, capita, ed esci basso per quello. E tu, ma che, anzi, mettiti un pezzo di cose, te lo lega al collo, così che ce l'hai sempre vicino alla bocca, ti sento più bene. E allora, così va bene, Bacchi, aiuto, avvicinati il microfono alla bocca, non ti allontanare, riprendi giù. Ok, sì, no, io sento bene, la verità, no, non ci sono problemi. Certo, se poi si allontana dalla bocca è chiaro che la radio è più bassa, però per me arriva sempre bene lo stesso, anche allontanandosi. E vabbè, viene spontaneo, anche Natalino alle volte ha l'abitudine che si allontana dal microfono quando usa il microfono normale, no? E allora arriva basso, il segnale è buono e arriva basso, invece quando si avvicina ai 5 è perfetto, è anche molto forte. È così, dipende anche da come si presenta davanti al microfono uno. Va bene lo stesso. Avanti, Antonè. Io oggi lo sento a pomponio. È strana comunque questa frequenza. Volte lo sento benissimo. Ma tu comprendi? Arriva tutto a tratti, non lo capisco. Tu arrivi, vabbè, mi sono seduto qua giù, in camera da letto, che è là verso la tua zona, là, il terrazzo. E appunto, anch'io sono nella zona alta della casa, per cui se vado in basso magari sento malissimo, o meglio, posso capire qualcuno, ma non tutti, ma essendo in alto, alta, anche se sono all'interno, e col gommino, non ce ne sono, c'è solo un problema, Luca, se io mi sposto poco a poco, ma anche di un metro solamente, dalla posizione dove sono adesso, già trovo difficoltà ad ascoltare e anche a farmi sentire. Ma purtroppo questa frequenza è così, non c'è niente da fare, deve essere proprio lineare, devono essere le radio, devono essere gli antennini, devono essere la visione ottica, devono vedere l'orizzonte, se no non c'è niente da fare, Luca. Lo so, è vero, è una frequenza un po' strana. Vabbè, si fa quel che si può, altrimenti ciccia. Vabbè, io ripeto, a Graziano lo sento bene, a Gio Maria lo sento bene, vabbè, Claudio arriva benissimo, Cosa arriva bene, Bacchise, tu giù un po' così, a seconda dove mi metto non ti sento più, Pompuglio non lo sento per niente. E poi tutto il resto che c'è qua in zona li sento benissimo, ho detto, ora gli altri. Un attimo, mi assento, Luca. Da Jesus, così hai detto? Ho detto che sento bene, sono all'esterno, Antone. Anche tu, rispetto a me, io non attraverso la città, io sono sempre all'esterno, sia per il Latte Dolce che per la zona tua, sono sempre all'esterno. Ecco qual è il vantaggio mio, Antone. Se no, il discorso... non ti avrei potuto rispondere, se ti sto rispondendo vuol dire che ti sento bene, no? Cassettina. Sì, ho capito. Luca non ti sente, vedi, Antone, poco fa non so se l'hai sentito, ma Luca non ti sente a te. Buttatele via, questa radio, buttatele via. Di fianco, la veloce l'ho aperto. Non ti piglio in pieno. Un attimo che è entrato Franco da sorso. Ciao Franco, ecco ad esempio anche per Franco, io cammino sempre, la mia onda radio viaggia sempre all'esterno, cioè tramite le campagne dove non ci sono costruzioni, ed è per quello che riesco a farmi sentire e ad ascoltare bene. Avanti Franco con la buonasera, Gio Maria, Bacchisio, Luca del Monte, Antonello e in quel rei che si ascolto abbiamo anche Claudio, ma ormai la 27 andrà smontata, non lo possiamo più sentire, infatti sono 15 giorni e anche di più che non lo sento, non l'ho più sentito. Vai Franco! Ehi capo, no, io sono entrato solo a fare una battuta e a salutarvi. Ho acceso un attimino che sono salito qua e niente, che c'ho gente giù. E sono andato per aprire a riempirmi il serbatoio, ho detto esci a vedere se c'è qualcuno. Però sono entrato a salutarvi almeno e niente, nient'altro. Avanti a te. Giulio. Ok, d'accordo, dai, attendi pure se hai gente a casa. Grazie per essere entrato a salutare, ad ogni modo. Adesso ti mando avanti gli amici, così ti salutano anche loro. Vai, Bacchisio, per Franco di Sorso. Ciao, Franco. Riprendo io, forse non ti ha ascoltato. Franco, Bacchisio ti ha salutato, non so se l'hai, se l'hai sentito. Se per caso l'hai sentito, fai un piccolo cenno, se no intanto io nel frattempo faccio girare. Avanti, Gio Marì. Ah, ecco, allora riprendi tu, Luca, dai. Franco non mi sente né da qua né da casa, ma con il baracchino. Ehi, non so se ho sentito Luca, poco fa no. Dunque, no, guarda là che è stato solo Giulio. Dai, ragazzi, io vi saluto tutti. A Battiglio negativo, 0-0. Dunque, salutare Battiglio. Ho sentito che mi hai salutato, ci sentiamo per le prossime. Tu Giulio, fai girare. Ciao a tutti, sto chiudendo. Ok, ciao Fra. Salutoni, ancora grazie per essere entrato a salutare, alle prossime. Vai Antone. Antone è andato bene, vai Bacchi. Faccio un attimo il bianco, vado a girare un pezzo, ci sentiamo dopo. Antone aveva l'antennino esterno, poc'anzi, ha detto. Ma io lo sentivo benissimo ugualmente, evidentemente lì da te non arriva. Non so cosa dirti Bacchi, riprendi e fai girare tu, vai. Sì, tutti a dormire. Io sto aspettando la mia 25, dai. Dopo mi assento pure io. Niente, dai, un attimino che mi sto pulendo il telefono, che c'ho un po' lentuccio, eh. Prendete voi un attimo. Ok, vediamo un po' se rientra Gio Maria. Gio Maria, ti sei liberato? Gio Maria non riprende, evidentemente ancora ad affare a casa, dai. Ok, vediamo un po' se rientra Antonello. Antonello? Antonello ha troppa sete e sta bevendo ancora, Bacchi. Per cui siamo rimasti io e tu in questo momento. Ok, ho capito, Bacchi. Sì, no, io ripeto, ti sento bene. Gli altri non so cosa dirti, cosa vuoi che ti dica. Io ti sento bene, per cui vuol dire che per me da questa parte va bene. Ripeto, tu, tra me e te, lo sai. Tu abiti nel quartiere praticamente un po' in periferia. Io abito in periferia proprio rispetto alla città, per cui che problemi ci sono? Epita, si beppo con una taracabituria e ci metti anche tu, ci vediamo di persona, ci vediamo. E buttalo giù, allora, se ti dà fastidio buttalo giù, cosa fai? Toglio, spostalo, cosa, mettigli le ruote, fai qualcosa. Strano però, perché anche per Marino tu dovresti essere di benissimo come visuale, non capisco come mai Marino a giorni ti sente, a giorni no, boh, strano, a meno che lui non si sposta da una stanza all'altra, allora il discorso sarà per quello, non lo so, ma chi. Cantagli la canzone, Marina, Marina, Marina, com'era quella canzone, cantagliela, si vede che è andato a spendere soldi, è andato a fare compere. Lascialo fare, che adesso sta giocando con il nipotino. Hai visto che già risponde al telefono, che aspettina. Faglielo squillare sempre, Bacchi, faglielo squillare. Ok. Avrà ospiti anche lui, e chi lo sa. No, perché di solito la sera anche lui già si fa sentire su questo giocattolino. Lo so, deve fare il bambinaio, va bene così, ha più soddisfazione. se lo credo, ci mancherebbe altro, vorrei vedere. E vabbè, dai, vediamo un po' se è acceso. Marino! No, no, no, non è acceso, ancora in viaggio è o Bachì. Ma quello che dico anch'io, questo fatto delle scale, cosa vuoi che ti dica? Poi nelle scale c'è chi scende e c'è chi sale, purtroppo è così. Anche quella è bella, vero? Come fa quello della sera che fa con Bonulisi, De Laurenti, quando scende dal piano alto dove suona il pianoforte, lì si attacca la pete che scende come un pazzo, lo hai visto? Sì, quello sì, no, già si mette i guanti, quello sì. Poi aveva quei guanti. Vabbè, quelli lì sono allenati e hanno i calli nelle mani. E dunque, quelli poi non devono perdere tempo a mettere i guanti, se no quando mettere i guanti è già tutto finito. Marino è andato a passeggiare, oggi è una bella giornata. Ha solo sporcato le macchine lì, quella sabbietta che è arrivata chissà da dove, dall'Africa o dalla Siberia, Ciao Mari. Bomba. E di colore. Bachisio. Di colore. A me voi, signor Bachì, buonasera. Buonasera Giulio. Bachì, non lo senti a Marino, che mi sta spaccando i timpani. Sì, lo stai schiacciando a tutto spiano, Mari, lo stai schiacciando a tutto spiano. È strano, dice che non ti ascolta. Ma sai come mi stai arrivando? Tu sei. Non la bomba no, di più, ma veramente di più. Caspita, tu sei proprio, cosa vuoi che ti dica? A livello assordante proprio la tua radio, è fortissima. Oh, strano, perché lui dice che lo sente a te. Ma chi, non lo senti a Marino? No, non ti sente nemmeno, non ti sentono. Aio, butta giù quel palazzo, Bachì, buttalo giù, vedi che dà fastidio. Va bene, ciao Tore. Sì, ciao Marino, fa pure. E allora, signor Giulio? Ciao Tom. Mi stavamo facendo un po' di prove. Hai visto quanto è strana questa frequenza? Caspita, Marino mi arriva in una maniera assordante proprio. E invece Bachisio non lo sente, e lui non sente a Bachisio. Che strana però questa frequenza, nonostante che fra loro due c'è un po' di visibilità buona ci dovrebbe essere, perché essendo all'esterno coso, o Bachisio e fuori città, Marino dovrebbero sentirsi, invece non si sentono, mentre qua mi arriva proprio a bomba. Va bene che da ottava di punti è un tiro di schioppo, però è proprio, ti sto dicendo, ho dovuto abbassare il volume perché era troppo forte. Vai tu. Ma sicuramente dove ha messo l'antenna lui, deve essere che c'è qualche posto che lo chiude a Marino, ecco cos'è. E quindi non ce la fa a prenderlo a lui. Da noi magari riesce a prenderci, però a lui deve essere c'è qualcosa davanti e non riesce a prenderlo. Come sono io, che se metto quell'altra antenna non lo prendo a Marino. Sempre bene, Bachì, sempre bene, da me arrivi sempre bene. Adesso c'è Tore, adesso ti faccio venire avanti Tore, vai Tore. No, io già l'ascolto, sì, anche con quell'altra antenna lo ascoltavo, anche se era più basso, ma l'ascoltavo lo stesso. Bachì, io ti ascolto lo stesso, è Marino che non ti ascolta, deve essere che per Marino sei in una zona buia. No, non c'è Marino, si è allontanato. Deve essere che con quella sei in zona negativa, sì. Ecco cos'è. Vuol dire che quell'antenna vuol portata molto, ma molto in alto. Sì, quella lunga, quella che stavi adoperando sempre. Non sbagliare via, non mettere la mantova. Attore, qualcuno già ha provato, tempo fa ha provato anche con la mantova, e usciva tu. E adesso esco, adesso dovrebbe ascoltarmi anche il Presidente della Repubblica. Sì, questo è da vedere anche, se si va arrivi anche se abbassi, la frequenza mi pare non va arrivi, ma chi si abbassi. Ci arriviamo, vai. Io adesso le ho messo l'elicottero. Oia, giù adesso ho peggiorato, No, tu ti devi comprare una mongolfiera. E ti metti sopra lì, nella mongolfiera, vedrai che ti sentono tutti. E forse conviene, ga. La faccio qui atterrare in terrazzo, dal terrazzo parto. E in mongolfiera, tutti. E se non mi ascolto poi li faccio pipì sopra. Pure, è interessante che non passa dalla parte mia. A te l'immagine tu, dispettoso vuol dire, in quel caso lì. Sì. Ah, ma mi sa che dovremmo munire un po' in alto l'antenna, signor Bacchi, eh? Saccannichidda e metterci quella lì. Questa è la vecchia, quella che usavo sempre. Ma non mi hai capito, che ne toglievi quell'antenna bibanda che c'avevi sotto in quella grande. Ne toglievi quella e ci mettevi quell'altra lì. Quella grande la lascio stare dov'è. Ieri l'ho piazzata sotto a 10 cm di distanza. È sorda lo stesso. Nulla, in trasmissione va e in recessione non sento un H. Marino non lo sento per niente, lui non sente me. Tutti gli altri li sento, a lui nulla. Te l'ho detto Bacchi, vuol dire che sei in una zona d'ombra per lui. Ecco cos'è. Dire che sei in una zona d'ombra dopo l'hai messa. Con questa invece ci arrivi. Con questa ci dovrei arrivare, non lo so. Marino, ci sei? No, la gente a casa, Bacchi. Ha detto che già rientra dopo, più tardi. Adesso ha invitati a casa. Le sta offrendo un bicchiere di cannonau. Sì, anche un bicchiere di mitragliatrice si può bere. Ottore, quanto è... Quanto è oggi? È nervoso, Bacchisio. Oggi è nervoso, sì. Ma tra bai da cucino, oggi è nervoso che l'antenna non rifunziona. Ti ho detto, il calzolaio fa le scarpe. A tutti, e lui rimane senza scarpe. Capita, a posto siamo, bubu. Ma strano però che stasera non si è fatto sentire Graziano, lui che è quello che... Cosa vuoi che ti dica? Così in amicizia di Bussolini è bocca di candalo. Sta facendo la pecora bollita. Ah, la pecora bollita sta facendo lui, per quello è... Ah, Tore, non è strano che non c'è Graziano oggi? È vero mio, oggi non c'è Graziano. Chissà pa' cosa, quando lo zecco non v'è mai. Quando non mi servi, entra. Si vede che oggi è proprio impegnato ai fornelli, come fa lui sempre. La tariffa è elencata, tutto quanto che sono cucinato, e ha preparato come minimo per un ristorante intero di almeno 20 persone o tu. Da quanto poco di cosa, tutta una dirata. Poi bisogna vedere se è vero che ha costruito tutta questa cosa. Vai, ma chi? Graziano quando si mette a cucinare cucina per lui e per tutto il reggimento. E la brigata Sassari in casa sua c'è quando cucina. Ah, così fa, un esercito deve sfamare lui sempre, no? Vabbè, lasciamolo fare, dai. ossia che si offende, è meglio che cucini allora. Vai tu. Sì. Avrà cotto la moglie, Edu. Ma se muore la moglie, no, Edu. Quello che penso io sempre, Edu si cucina già Edu. Io non lo so come, non lo so come più sicuro, perché ho la sensazione che cucina Rossi, non lui. Lui mangia e basta, cosa cucina? Lui fa gli assaggini. Gli assaggini, quello fa proprio i pranzi lunghi, altro che assaggini. Ui. È così, signor Tore. Riprenda. Ui. Che andiamo bene, andiamo. Che attaccandolo voi, non si acciappa. Quando non ti servi, è in mezzo a ribiri. Da entra da voi. Rimane nuda, avanti di nulla. È già un paio di giorni che non lo sento. E anch'io, è un paio di giorni che non lo sento. Dice che l'ho sentito stamattina. Boh, Nemmeno io, vabbè, ieri c'era la partita, dunque io non ero all'ascolto, perché ieri c'era la partita, dunque non so se è entrato, ma comunque a partire ieri già l'ho sentito, dai, non per molto, ma già l'ho sentito. Sì, vabbè, dai, se entra domani è buono, se no si rabbia che Dubai. Ma siamo in Italia noi già. Peggio Baedo, noi siamo sempre noi. Vediamo qui. Ehi, vabbè, dai, guardate che non si sente bene, già lo sappiamo, no? Perché lui, anche quando si sente un po' male, entra lo stesso, evidentemente, o è impegnato, oppure si sente un po' male, si sta riposando. Vero, Otto? E allora? Tanto ci dobbiamo riposare. Ehi, uiuia. Allora, mi sei portato la BB, quello che mi dovevi far vedere ieri sera, Bacchi. Certo. Quello che mi dovevi far vedere stamattina, boh, sei riuscito a metterla a posto. No, stamattina l'ho spostato, ho fatto, nulla, proprio no, zero di prodotto. Adesso sto uscendo con l'antenna Ciavo Vecchia. Escono, tutti escluso Marino, non sento né a Marino né a Antonello. Vabbè, Antonello col gomino non ci arriva qua giù. Allora vuol dire che vuole in un posto più in alto, vorrebbe. A provare a metterla più in alto. Bisogna provare, no, cambiare zona. È strano però. Se con questa che sto modulando adesso mi ascoltano tutti, perché con l'altra allo stesso punto non mi ascoltano? Punto interrogativo. Quello è. O è qualche radiale che non riesce a prendere da quella parte, boh. No, non saccio. Non lo saccio. È così la nostra frequenza è maledetta. Decide lei dove deve passare. E dove vogliamo noi non ci passa. Vediamo se c'è Marco all'ascolto. Marco, ci sei? No, quello si sta guardando Bonulisi. Lui è tifoso di Bologna. Vuol dire che non ha gana di entrare, dai, vuol dire che non c'è. Bacchi. Allora sto guardando questo spezzone del cavo dell'altra radio per portarmelo giù, per portare giù questo qua. Capito? Per portarmi giù questo qua. È mancata la corrente, il mangime gli è mancato questo portatilino. È una trappola giù, sa frequenza. No, a me mi è mancata la corrente, la batteria si è scaricata, adesso l'ho sostituita. Perché aveva fame, se tu non devi mangiare la batteria, per forza si ferma. Infatti, adesso ne ho messo una che è tre volte tanto, perché quella là è 1800 mA, mentre invece questa è 3800 mA. Questa è giallula. Caspita, così grossa. Grossa, li hai piazzata. No, io sono alimentato dal coso, dall'alimentatore. Tu sì, ma io no. Va bene che cosa l'avevo già usata un paio di volte. Ieri l'avevo usata, sicché si era già abbassata. Però quella da 1800 non è che dura molto. Diciamo che dura... No, una sera non ce la fa. Cioè per il tempo che rimango in frequenza io non ce la fa a fare una serata intera, mentre invece questa ne fa anche due serate abbondante anche. Addirittura quella è più potente, capito? Avanti to. Noia. Andiamo, è una frequenza proprio meglio, è meglio la 27 come te coso. Ah beh, non ci sono dubbi, è tutta un'altra musica. Ma io sono passato qua stasera perché ho visto non c'era nessuno, e 27, e allora gli ho detto, ma c'è un campo d'atterraggio da un'altra parte, e qui appunto c'era Gio Maria, c'era con Bacchisio, e allora sono entrato. Ma si è sentato Gio Maria? Sì, deve essere che ha ricevuto visite, sicuramente così, perché poi non ha più ripreso, era qua con noi prima. Anda bene, ti prenda signor Bacchisio. Ehi, c'ho un capo in mano, sto tagliando. Sto tagliando e cucendo, to. Cosa stai cucendo? Tagliando e cucendo, sto tagliando un cavo di alimentazione per metterci le banane. Sempre da fare a così. Chi si ferma è perduto, bisogna sempre impasticciare. Ah, chi so, sì, bisogna sempre impasticciare. Vabbè, almeno se non altro uno passa il tempo. E cosa vuoi fare? Ogni tanto già, anch'io già mi diretto a fare qualche piccolo pasticcino così. E cosa vuoi fare quando sei seduto qua? Alle volte non c'è nessuno, allora sei in attesa che entra qualcuno, che entra qualcuno, e allora mi metto lì con le forbici, cacciavite, pezzo di filo, sempre tagliando il sole, sempre facendo un pezzo di filo. Sì, andavi allora. Arma che rimane indaffarato. Vero, signor Bacchi? Intanto c'è così, questo era della radio che si mi è bruciata. E questo cavo si è sempre buttato qua. Siccome per non portare giù tutto quel cavo che è attaccato alla radio, mi porto questo spezzone e lo lascio giù e porto solo giù la radio. E fai bene allora, e fai bene. Almeno invece prendere tutto il cavo e cosa, porti solo la radio. Chiaro, cioè, senza avere tanti baragagli fra le mani. Così bisogna fare. Viaggiare leggeri. Infatti, leggeri leggeri bisogna viaggiare. Adesso poi mi cerco due banane e faccio merenda. E io invece devo provare ancora che Sant'Anna mi ha dato. No, io fra tutte le cose che ho, dai, un po' di cosette già ce li ho. Ho un mammut, anzi, ne ho più di uno, e qualche interruttore, qualche invertitore, ho un commutatore, tutte queste cose qua, no? E ogni tanto prendo e comincio a fare, sono partito dal punto luce semplice, poi ho fatto la deviata, ho fatto la commutata, ho fatto l'invertita, ho fatto la suoneria con il campanello, ho fatto la luce per esterno con spia nell'interruttore, insomma, ma prendo così, faccio, smonto, rifaccio, così via. Tanto il materiale, perciò quando non so cosa fare mi diverto così qua. E così bisogna fare giù. Io faccio il conto, il tempo scorso c'avevo un lineare da mille ed era irriparabile, perché chi ce l'ha preso ci ha messo le mani dentro, l'ha saldata, ha fatto un casino nero sulle basette ed era irriparabile. Allora l'ho smontato e ci ho messo due alimentatori dentro. Uno che ho cassone con due alimentatori. hai fatto bene. E bisogna anche arrangiarsi così, facendo queste cose. A me non si passa il tempo. Tanto cosa fai? Tu vai in giro e c'è freddo, o piove o è freddo, e se che è stato male, te rimane a casa, al caldo, un po' la televisione, un po' il computer, un po' il baracchino, un po' quello, un cacciavite, e tira a campare. Vai tu. Infatti, bisogna fare così, bisogna fare, andare davanti e aggiustare sempre. Sì, bisogna aggiustare, Tore. No, tu immaginati un po', c'è un alimentatore da 20 ampere e uno da 30 ampere dentro. E più ci sono tutte le prese fuori, c'ho 8 prese, c'ho. Capito? Con le luci, quando accendi si accende la luce, quando spegni si spegne. È un coso, mi sono dilettato così a passare il tempo. Sì, anda, certo, sì, già fa così bisogna fare. Infatti, cosa era stato, vuoi chi dà ragione? Oppure mi metto in mente di ne cavo tutto dal daurino, prendo, sposto magari quello che la radio che è sotto, che è sopra lo metto sotto, quello che è sotto lo metto sopra, e così via, spolvero tutto il tavolino e poi lo rimetto tutto in ordine, ricollego tutti i fili e tata, per passare un tempo, ma chi? Infatti io salgo qua dove c'è questo buco, solo che il tuberino è un casino che non ne capisci un H, invece poco ferro in giro, vuol di tutto c'è, pinze, pinzette, tronchesine, cacciavite, saldatore, cos'è non c'è in giro? Un male di ferri, no, due minuti a sistemare. Vuol dire se ci sono ferri in giro vuol dire che li stai usando, per cui Magari quando ti stanchi non hai voglia di mettere in ordine, di mettere a posto e lasci tutto così, tanto nessuno in soffitta, che problemi ci sono. Andate a chi? Non posso aprire la valigia che è sotto i piedi qua. Dico tutto dritto, Sarri, buonanotte. C'ho una poltronita di non aprirla e chiuderla, questo è. Vabbè, anch'io ce l'ho la cassettina degli attrezzi qua. E tante volte la metto a testa in giù, li metto tutti quanti per terra e comincio magari a pulire la cassettina, perché alle volte quando sto tagliandolo è pezzi di lastro isolante per non sporcare per terra, piglia il lampadrento, un pezzo di filo, spellati, capito? Tutte queste cose qua. A un certo punto, per non buttare per terra, mi danno pure la cassetta, però poi sistematicamente ogni tanto metto la cassetta a testa in giù, pulisco tutto e è chiaro, e la rimetto in ordine. Io faccio sempre così. E infatti, bisogna fare così, no, io ho una valigia e c'è un ferri dentro, c'è un casino di ferri. Ce l'ho svuota perché con la sera a clienti, no? È sempre chiusa lei, apro, tocco i ferri che mi servono, poi le rimetto a posto. Solo questo periodo non li ho messi a posto, sono tutti in giro. Davvero attenti, te lo credo. È interessante trovare quello che cerchi, perché se no, siccome tu sei in disordine alle volte, fai l'appello se manca qualche ferro. Vai Ito. Infatti. Ah, io già annaggio di... Annaggio una, io sono in magazzino di cassetta a bari ferri. Una è in oggi sopra. E un coso tutto pieno di ferri e a voglia. E io credo, diciamo che un po' tutti già ne abbiamo di attrezzatura, di ferri, eccetera, certo, ci mancherebbe. E magari chi ti ha portato? Qualcuno ha chiamato qua. Qualcuno ha chiamato sul 10, mi sembra, sì, sul 10. Vabbè, non ho capito però chi è. Vai, ma chi? Ia, che è così. E Cermalino non è arrivato ancora, Tom. Quella bucato in strada. No, che c'era la figlia e c'era altra gente, ha detto che entra dopo, se ci siamo. Allora dei cucchi entra Marino. E lui è in campagna e sono i cucchi, ci sono. E lui al forno, non ha capito, lui al forno, vai pure da fai lì. Signor Bacchi, bisogna fare così, bisogna fare. Tirare, fare, mollare e ad abbui dovrà piazzare. Infatti, ma io, quello che dico io, porca della miseria, questa antenna sto usando adesso, è nel palo della mantova, sotto questa ci ho messo l'altra sera e non mi ascolta lo stesso marito, ma prima l'ascoltavo, non mi ricordo in quale punto era che lo mettevo l'antenna, appoggiata, boh. Adesso non c'è, se no ho sentito un po' sul parapetto alterato. bisogna fare così, bisogna fare piano piano. Piano piano, vabbè, dai, che hanno entra, lo saprai. Questa sera abbiamo venito. Ma chi tu deve fare così per sentire a Marino? Ti sposti dentro casa, da un posto all'altro, e guardi il segnale di Marino. Quando vedi che il segnale è più alto di tutti, ti fermi lì, in quella posizione, e ti deve sentire, e ti sente senz'altro. Sì, infatti è quello che volevo fare. Ma di giorno Marino dorme, dunque non lo possiamo fare. Ehi, addorme, cosa dorme? Capita, il mio barichè c'è le 3, da travaglio, il 3, le 4, e si alza alle 4 del mattino, tanto che dormì. Che ci sono trombe, ne ha di tutti. No, adesso è libero, non lo sta facendo più quell'orario lì. Esce alle 11:30. Ah, così è, vabbè. Allora, è un po' più leggero. Comunque si alza presto. Mi sembra che entra alle 4 al lavoro, ti puoi immaginare. Poi, specialmente in questo periodo, con questo freddo, alle 4 di manzano, bella allegria mia, ma chi? Almeno le adrizza un po' i capelli, ga. E certo la mattina c'è freddo, questi giorni c'era molto freddo, eravamo meno uno ieri. Appunto, specialmente se hai il servizio dalla parte alta di Sassari, e chi vi pensa che nel Monte Alto, o verso zona Filigheto, eccetera, c'è quello che vende gli animali accanto alla mia bottega, e mi ha detto, dice, no, stava nevicando anche lì ieri, e naturalmente non ha attecchito perché si è sciolta subito, però lì a quell'altezza, lì siamo a 400 metri siamo, ma chi, rispetto al livello del mare, a 400 qualcosa. Lì sì, di più alto, più di alto. E Danilo, quello è Danilo, quello che vedo degli animali. No, Danilo, cosa si chiama? Davide, no Danilo, Davide. Sì, Davide, la sorella è Patrizia che è al corso, a Portobello. Sì, Patrizia lavora a Portobello, sì, è vero. O non so se è fidanzata con quello di Portobello, comunque lavora lì. È fidanzata con si chiama, di cognome lui fa Capitta, adesso non mi viene il nome. Io non lo conosco quello, evidentemente. Sì, comunque so che da Portobello c'è un sacco di tempo, c'è da tantissimo tempo, sì, è vero. Me l'aveva detto lui stesso, io non lo sapevo, me l'aveva detto Davide. E va bene, avanti tu. Così è. Signor Bacchino, si preoccupeggia. La fermo di che da maniera. Allora io in ho lavorato 35 anni e me ne invitavo sempre alle 3:30. Hai fatto bene, almeno hai ringiovanito. Alle 3:30 uno ringiovanisce. Ma io mi ho lavorato 62 anni, però mi sono guidato sempre le 7:30. Per cui 7:30, anche voi tabula all'otto, 8:30. E tanto non mi... passi 40 anni non mi comandava nessuno. E così ho so. E vabbè. Io ne ho fatto 35 anni di questo lavoro che fa il marino, quindi a voglia, adesso qui ha arrivato, quindi a se ne deve fare. Già lo credo, se ne deve fare. E a se ne fa con volontà, certo, sì. Però poi quando contavo a fine sera, quando contavo l'uri, era di 10, 12 perciò. Anche se magari andavo un pochino più tardi, ma sai perché se andavo più tardi? Perché altro per rispetto, a secondo di quello che dovevo fare, per rispetto della gente del palazzo, perché non stava bene magari attaccare l'otto di Manzano, attaccare direttamente la macchina, e insomma c'era quello che magari si alzava un pochino più tardi, tant'è vero in quel palazzo io, nonostante che sono il primo in assoluto nel palazzo, perché quando sono andato io lì in quel magazzino, no, non era nemmeno finito il palazzo, nessuno mai si è lamentato, nessuno mi ha mai detto niente per i rumori eccetera, però la sera magari se noi danni di nuovo non arrivi a casa quello sì, purtroppo. E chi è che sta mitragliando? Chi è quello che sta mitragliando? Avanti. A rate sta uscendo questo qua. Maria, già Mariso sì. Mi stai arrivando a tratti, non ho capito che sei, riprendi. Ma è in movimento sì. Adesso non sono riuscito ad ascoltarti proprio, è troppo basso. Avanti, Bacchino, hai sentito tu questo amico chi è? Non ho sentito gracchiare e basta, non sono riuscito a capire chi sia, niente. Esce male, avanti. Adesso ho capito adesso, ma non hai mollato subito, continua. Avanti, amico, non si è capito chi sei, non lo sento più. Vedo solamente la cosa, il led che si accende, ma niente di più. Vai tu. Io già l'ho ascoltato, Antonello è. Antonello Pomponi, sì. Sì, Antonello, ma che vuota, che cosa c'è? Con il portatile in zona oscura. A volte ti intendo, a volte no. Sì, ok, ciao Antonello, ci sentiamo. Ma chi era Antonello, era? Riprendo io, ciao Antonello, non ti ho ascoltato, ho sentito solo cra, mi sembrava un rospo, però in modulazione non si è sentita bene niente, muy disturbata, avanti giù. Ok, inizialmente già mi sembrava lui, ma non ero sicuro, perché è arrivato a tratti praticamente, non si capiva niente, chi era, chi non era, va buon dai, io vi saluto, dai. Vi ringrazio per la chiacchieratina, ci sentiamo eventualmente domani. Alle prossime. Ciao Bacchisio. Ciao Ottore, grazie a tutti e due per la chiacchieratina. Ci sentiamo alle prossime. Non so se Marino lo sta ascoltando. Ciao Marisa, ci sei? Insomma, lo salutate voi quando rientra. Alle prossime. Riprendi pure tu, dai, ascolto il finale e poi chiudo. Ok Giulio, ci sentiamo, dai, alle prossime, magari domani se va tutto bene. Ok, riprende Bacchi. Bene, bene, ciao Giulio, buona serata, grazie della compagnia e ci sentiamo ancora, se sei domani poi, c'ho 5 minuti e mi avvicino a trovarti, va. Ok, ciao ancora con la buona serata da Bacchisio. D'accordo Bacchi, sì, già ci sono, certo che ci sono. Sì, abbiamo già imbiancato e tutto a posto, così vedi che abbiamo fatto un bel lavoro veramente. Adesso rimane il resto, soprattutto il pavimento, però prima del pavimento voglio completare il suo palco e mettere la porta, insomma, un po' tutto, dai. Poi il pavimento, l'ultimissima cosa, perché devo mettere il parquet, capito Bacchi? Parquet metti? Sì, quello di quello Melamini, così. Allora, lo potevi fare su lì allora, che cosa, Giulio? Direttamente sopra lì. Ma c'è quell'avvallamento, ma chi? Ci vuole per forza il livellante, perché hai visto che c'è quell'avvallamento, se ricordi che abbiamo controllato con la riga? Togli quell'avvallamento e basta. Togli quell'avvallamento e va bene allora. Quello già è facile da fare. Tanto quello non va incollato, va senza essere incollato, quello lì stai prendendo, quello è incassi. Quello è incassi allora, sì, proprio quello, certo. Prima sotto ci va il materassino, no? Quel telo di gomma ci va, e poi sopra devi stendere quel tipo di parquet, sì, quello. Ci va una specie di tessuto non tessuto, che si mette sotto per il rumore e tutto. Sì, infatti, materassino serve più che altro per attutire qualche piccolissimo dislivello, capito? Soprattutto serve per quello. Per quello e anche per il rumore si mette, per avere un piano, ammortizzare l'avvallamento. Appunto, è quello che stavo dicendo. Quell'avvallamento lo devo per forza recuperare in qualche maniera, magari con livellante, e dunque allora va bene così. Però come mi ha detto De Martis, mi ha detto anche il livellante, se non metto quella specie di aggrappante che c'è, che vendono loro, anche quello dice si stacca dalla mattonella, perché la mattonella essendo liscia e lucida soprattutto, non attacca bene. Attacca e non attaccami, c'è sempre usato a livellare sui pavimenti già fatti, c'è sempre usato, capito? Vabbè. I pavimenti già fatti certe volte sono di cemento e sul cemento... Lo so, infatti anche a me mi sembra un po' strano che il livellante dovrebbe attaccare un po' dappertutto, ma cosa vuoi che ti dica? Io siccome mi sono informato, ho chiesto e mi ha detto, però prima del livellante dice dovresti dare questo prodotto, così è più ancorante, capito? È un altro discorso. Un sacchetto... 20 euro mi sembra che mi ha detto che costa, un sacchetto è qualcosa. Ma con un sacchetto per fare quel piccolo avvallamento va più che bene, anzi, ne dovrebbe anche avanzare. Sì. Chiedi a Margherita, lì vicino a casa tua, chiedi a Margherita. Vabbè, non sarà la stessa cosa. Guarda che De Marte si è ben attrezzato, mi è ben fornito. Poi tutti i santissimi giorni c'è la fila sempre della gente, i mulattoni da tutte le parti. Dunque è un locale, cioè è un magazzino, è un deposito molto ma molto fornito. Quello sì, ma dove esserci anche da Brickman quello lì, capito? Anche Brickman ce l'ha quella roba lì. Lo so, ma da Brickman non di questi materiali così non ne voglio comprare. Lo compro direttamente lì. Da De Martis, tra l'altro anche ieri sono andato, che ho comprato anche il pellet, l'ho comprato, per cui vado sempre lì. Da quando avevo iniziato la casa qui, tutto quanto, solai, tutto lì avevo preso, o Bacchi. E allora sei vecchio cliente, allora continuo ad andarci che ti tratta meglio. Mi tratta meglio, mi tratta con i soldi sempre, come tutti quanti del resto. Ma è normale, no? Vabbè, dai, comunque. Vabbè, comunque già sono lì. Se passi, già ci sono tutte le mattine. Bacchi, ci sentiamo domani eventualmente. Ciao di nuovo, Bacchi. Ciao, Tao, di nuovo. Scusa se ho fatto ping pong con Bacchi, se lo riprendi. Non c'è problema, Giulio. Non c'è problema, già ci sentiamo, ok. Ehi, ciao Giulio, a domani, ciao. E signor Morì non si è ancora sentito, Tao? No, ho detto che c'era la figlia e altra gente. Appena se ne andava la figlia e l'altra gente entrava. Sì, buonanotte al secchio. Male siamo andati, Male. E vabbè, dai, a buia. Alla prossima, allora, vuol dire a domani, le vasità. A domani tutto. Sì, bisogna far così, bisogna, quando entra, bisogna di lì, all'orario che entra. E tu ci devi essere lì per spostarti l'antenna, ecco cos'è. Marino, via. Sa, mela, 1:07. Infatti, ma tu non te lo ricordi dove l'avevi messa? Non mi ricordo, no. Adesso l'ho appoggiata su un coso dove la bombola del gas, mi sembra l'avevo messa lì, non mi ricordo. Bisogna che ci sia lui a vedere un po' se ascolta o no. Infatti, bisogna che ci sia lui, e ci sia luce anche, per vedere. Ma arrivava forte che stasera, Marino. Infatti, e va così, devi va, se no non ci riesci. È una zona balorda, c'è un punto balordo. Non lo sai che così. Basta che sia un po' bassa, le cose non passa. E gli ho detto, apri la porta per passare, invece no, lui con la porta chiusa. E lui passa tramite la porta. Non ci vuole capirla, no? Io vabbè. Adesso glielo dico un'altra volta, se no vediamo un po', riprende i provvedimenti. Infatti bisogna fare così, bisogna fare, se no dice arrivederci. Sicuro. Purtroppo andiamo così. Ah, domani devo andare a tirarmi alle 11:30, devo andare a tirarmi l'esito della visita del prelievo che ho fatto. Io c'ero oggi, sono andato alle 11:30 e sono tornato a casa alle 3. Certo, hai mangiato burro, hai. Cosa c'avevi? Una visita c'avevi? No, il coso, l'esito dovevo ritirare. Mi diceva, aspetti un attimino, fra poco lo chiamiamo. Alla fine mi sono scocciato, erano le 2 qualcosa, gli ho detto, dottor, ma ci sono dalle 11:30 qua aspettando, quando è che mi riceve? È quasi arrivato lì, aspetti un attimino, le 3. Certo, hai compreso, le 3. Poi ci devo ritornare il giorno 20, a tornare a aprire. Sì, uiuia, che andiamo dove andiamo. Certo, guardami dentro, da l'onde 2:30 sino alle 3. Vai tu, fa passare una visita. No, il risultato devo ritirare, il responso di quell'analisi che hanno fatto. E l'ho ritirato e mi hanno rimandato adesso al 20 di marzo per farmi nuovamente l'intervento. Quello che hanno fatto non serviva un piffero. Certo, ti hanno fatto aspettare così molto per darti l'esito. Per darmi l'esito, per dirmi che ci devo ritornare il giorno 20, mi devo rioperare. Oh, che te. Ci devi ritornare per il giorno 20. Il giorno 20 alle 9 mi fanno l'intervento, capito? E comodi sono, è una cosa, ne prende il cuore, mille bastoni, Trento, c'era mi dendica, porca la miseria, mi dà una rabbia. Sì, sono proprio a contusioso i 30 anch'io. E vabbè, io domani vado alle 11:30, vado un ritiro e me ne ando a casa. Sì, è veloce, sì, anche io alle 11:30 ero lì. Come sono arrivato, gli ho detto, sì, attendo un attimino, se lo caso lo serviamo adesso. Chi ti è servito adesso non veniva più? Sì, aveva visto che a mezz'ora e mezzo non era pronto, aveva bisogno del bene e me ne era andato. è una cosa, boh, adesso gli ho detto, ma non è che quando vengo il giorno 20 succede questo. No, no, alle 9 lei puntuale sia qua. Noi facciamo l'intervento alle 9. Va bene, io alle 9 sono lì. Andiamo e andiamo, bobo. Dai, dai, che te? È una cosa proprio... Ma come ti dai? Infatti, devono tagliare e cucire. Tagliare e cucire devono, torra. Abbiate che mi chieda sanato, no? Torra, apri, se apri un capo se va, apri. Certo, sempre che di intervento, Sempre nello stesso posto. Solo devono allargare il taglio e scendere in profondità. Chi è che sta parlando? Ehi, entra, entra. Crociera se n'è andato, è meglio così. Anda più bene. No, signor Bacchi. Sicuro, sicuro, è più in crociera che altro. Turno? Beato lui che è di turno. Beato lui che è di turno. Ehi. Bene ragazzi, è arrivata l'ora del merendero per me. Tore, te saluto, grazie della compagnia, se senti Marino, ti faccio un brodo di papere. Ciao Luca, buonasera a tutti quanti degli amici che sono in ascolto. Ma chi sono a questo istante? QRT, ascolto fino a lì e poi chiudo il tutto. Avanti Tore. Ehi, ci sentiamo domani Bacchi. Ok, alle prossime, riprendi Luca. Come Graziano sei anche tu Luca, a me ti ne contenti chi su. Ciao, salutissimi. Sì Luca, ci sentiamo perché anch'io sto chiudendo misociamente. Ok, alle prossime, a domani, ciao. Attenzione Bacchisio, cambio, non ti sento Bacchi, non ti sento. Allora ho acceso la 27, vai. Attenzione Bacchisio, cambio. Ciao Mario. Sento un po' di scariche, avanti? Vai sulla 27, Bacchi, fa la fresia, se ce la fai. Bacchisio, e chi è? E chi sei? E non ti ascolto, e sei a scariche? Se a scariche, non ti ascolto. Vai sulla 27, che ci sentiamo, dai. Bene, non mi sentiva, Bacchi. A me, Bacchi, Bacchisio. No, senti, bip, chiaro e scariche, non ti ascolto come modulazione. Hai capito, Bacchi? Tu sei piccolo, basso e nero. Ciao Lu. Antonello. Come? Faccio. Avanti. Tre mesi l'ho scelto oggi. Sì, e con chi? Con Fritellone. Ah, con mano Fritellone. Mano con Fritellone, sì. Avanti. Marino, mi senti? Attento Marino! Marino! Avanti! Ma mi senti Marino? Avanti, chi sei? Topo Gigio? Dormito sei Marino! E tu chi sei? Topo Gigio? Ma tu dormito sei! Ma io la sono sveglio, tu sei dormito! Ciao Mari! Buonasera, come andiamo? Come andiamo? Come vecchi? È meglio invecchiare, lo sai chi non invecchia vuol dire è morto. Giusto. E così sto facendo io, piano piano sto invecchiando pure io, Ma dove sei? A passeggio sì. No, a passeggio, un po' freddo. Esagerato, glielo dimmi ho freddo. Allora come mi alzo io alle 3 di mattina da lavorare c'ho freddo. Ti copri e sei a posto. A che ora? Alle 3 di mattina, vabbè adesso c'ho la settimana sono in ferie e rientro lunedì. Ma io la mattina mi alzo alle 3 di mattina, dunque c'è un po' di freddo. Un po' di movimenti, ti scaldi, sei a posto. Cosa fai l'autista? Come? Cosa fai l'autista? No, lo scopatore faccio. Ah, spazzino? Come? Lo spazzino? No, scopatore. Scopatore di cosa? Scopatore? Chi è che scoppa? Lo spazzino scoppa. Chi è? Il postino scopa dappertutto, oggi mi dici? E tutto. Detto, già sei poco attento. E allora, uia. Vabbè che c'ho 23 anni. E vabbè, sei nato ieri, sei nato, dai, c'hai 23 anni a domani. No, quanti dopo domani li faccio? Yeah, da te, uia. Allora sei in casa, sì. No, sono stato un monti. Come? Ma devi fare, tu, 23 anni. Chi sei, vabbè? Sì, buono, chiama tu buco, può aprire. Avanti, sì. Sto al ponte di Rosello solo, lì. Ti stai dicendo, non mi ti buttare, che c'è freddo ancora. Ma se ti cuci qui sotto, non sopra, sotto. Sto aspettando mio nipote, non ho l'acqua calda per farmi una doccia. Che bello. Calda qua, no. E lì tanti. Calda redda, E bene. Com'è? Siamo fra. A mia scute. Forte e chiasso. Tu mi ascolti a me. Teofra. Fra. Mi ascolti? Sì. Guarda che c'è Marino, guarda se lo senti, prova a chiamarlo. Marino. Fra, prima schiaccia la portante, dopo due secondi parla, se no non si capisce. Mari. Ti ascolto bene, forte pure, sì, bello pulito. In lavatrice ti sei messo, sì. Certo che sì. Caspita. Mi sento bello forte, bello squillante. Luca, da te come sono cieco, come arrivo? Cazzo, fortissimo, fra, Radio Super 5. Bene. Ok. A bomba! Mi ha conosciuto, come sei fuori dal cancello, figurati. A casa sì, fra. K. Beh, a bomba arrivi, fondo scala. Quale antennino sto provando? Quale antennino là? E guarda, sto arrivando lì, fra, apri la porta, dai. Franco, sei basso basso, Anda a me. Franco. Apri la porta, fra. Allora, più sentito quel finocchio di coso, di Fabrizio mascherato. Adesso perché il finocchio, boh. Ciao Marino. Ciao anche te. Io non so, tutti i finocchi sono lui, non so io, boh. Ci mi ha dato un messaggio adesso che c'è avuto un incidente in fin di vita lì a Santissima Annunziata, in coma. Mi sa che non ce la fa, Comunque dai, saluto a tutti, dai, ce la riascolta, che sto facendo cosa. Ciao, sentiamo, ciao. A me adesso non mi ascolta Franco, ciao. Ciao Fra, guarda, non so se a tiro lo senti, Franco. Sto fondo scala qua. Sono mezz'ora salutando, No, sta arrivando bene, tranquillo Fabri. Sì, io via. Oh Luca. Ehi, Artino. Ma vero è che è morto anche Fuis? Eia. Perché mi hanno mandato il messaggio ieri. E a Cagliari. Infarto. Già è così allora, dai. Vabbè, divertitela, ciao. Ciao Fabrizio, ciao Luca, anch'io chiudo, dai. Ciao a tutti, ciao. No, c'è Fabrizio, Marino. Ciao a tutti, ciao. Ciao ragazzi, buonanotte, a domani, ciao.